Mi raccomando, vi vedo un po' sottotono. No, ma per mia impressione, vi siete diventati buoni, ma sì, l'atmosfera nuova, se il Papa Francesco siete diventati tutti buoni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Il Papa rischia, secondo lei, per denunciare queste... Secondo me rischia, se io dico che appena comincerà a toccare alcuni argomenti, perché sta andando molto come se camminasse sulle uova, perché ogni tanto ogni giorno dà un messaggio nuovo. E ma la possono ammazzare, secondo lei? Appena comincerà a toccare problemi come lo IOR, eccetera, sì, eccetera, secondo me deve stare attento a prepararsi da mangiare da solo. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Non è al sicuro lì dentro, perché già adesso mi sembra che sia abbastanza isolato. Ah, lei dice, Ma io non ho capito una cosa. Rischia la vita, no? Rischia la vita, questo è interessante, Don Paolo. Rischia la vita. Io penso di sì. Le informazioni di Don Paolo Farinella sul Papa. Secondo Don Paolo, editorialista di Micromega e parroco a Genova, il Papa, per avere scoperchiato la lobby gay, o comunque per aver rivelato la lobby gay e interessarsi magari dello IOR e di altre porcherie vaticane, sempre secondo Don Farinella, rischierebbe la vita, addirittura deve guardarsi da quello che mangia perché potrebbe essere avvelenato. Altro che politici qua, D'Alema ha ufficialmente detto che il leader del futuro, la leadership del futuro è di Renzi. Senti D'Alema. Ora è uno straordinario leader politico e un grande comunicatore. Se lui fa crescere la sua statura di uomo di governo, di uomo di Stato, lui può essere la guida del paese. Potremmo aver risolto il problema della leadership, diciamo. Tu, ragazzo mio, vedi un'aquila. Vabbè, è inutile infierire, no? È inutile raccontare e dire quello che D'Alema sosteneva fino a pochi mesi fa. Perché è un'altra storia, un altro momento, eccetera, eccetera. Mettiamo qualcosa, Parenzo, no? Di D'Alema contro Renzi, o no? Metti l'epoca della rottamazione. Ma non c'è bisogno di mettere la rottamazione. Per esempio, potremmo dire, che ne so, Renzi ha idee grillesche, oppure non è in grado di unire il partito, non vedo novità in Renzi. Che ne so, boh, vediamo. Renzi ha idee grillesche, dai, su, mettiamo questo. È chiaro che Renzi cavalca l'idea cacciamoli tutti, che è un'idea grillesca, diciamo, che ha una certa popolarità e quindi viene cavalcata con una certa... E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe... Allora, secondo Feltri, però, la notizia del giorno sono sempre i grillini, le turbolenze all'interno dei grillini. Feltri, sono dei poveracci allo sbando. Con una selezione del personale politico deficitaria non possa all'improvviso trasformarsi in un partito di intellettuali capaci di fare politica, di disegnare strategie e tattiche. Sono dei poveracci allo sbando. Poveracci allo sbando, aggiunge Feltri, senza Grillo era già tanto se erano impiegati delle Poste. Ma è la verità quello che dice Feltri. Devono ringraziare Grillo e adesso fanno i geni, fanno gli indipendenti, fanno quelli che dicono no, adesso Beppe non ci può dire come dobbiamo comportarci. Ma senza quello che tu chiami Beppe sei zero, ma come lo devo ripetere? Questi signori, se non avessero trovato Grillo che li avesse poi trascinati alle Camere, probabilmente oggi farebbero gli impiegati delle Poste, ma diciamo con una botta di fortuna. E allora che hanno da lagnarsi? Perché non lo sapevano chi era Grillo? Tutte le papere piangono. Come al solito sono sulle stesse posizioni di Feltri, perché sento poi qualcuno che dice oggi, che ne so, Bartolomeo Pepe, senatore dei 5 Stelle, il movimento è destinato ad autodistruggersi se continua così. Bartolomeo Pepe, voglio avvertire coloro che ci ascoltano, era uno che diceva di prendere come modello Chavez, il signor Chavez. E lei hai votato tu questo però. Io non ho votato Bartolomeo solo Pepe. Perché lo hanno eletto al sud. E comunque, come sai, io ho votato senza guardare chi era candidato, perché non me ne fregava assolutamente questo nulla. Questo mondo qua, questa cosa qua. È quell'acqua lì, eh? E se i piccioni spariscono. Crozza, Berlusconi e il patrimonio dell'UNESCORT. Che tra l'altro a Biancofiore oggi ha detto che se fosse per lei Berlusconi lo farebbe patrimonio dell'UNESCO. Poi si è corretta perché voleva dire patrimonio dell'UNESCORT. Comunque. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Il PDL senza Berlusconi? Sempre Crozza. No, lo dice la Polverini. Ha detto il PDL senza Berlusconi perde fascino. È come in un film porno senza le scene di sesso, solo i dialoghi. Sai che arriva sempre l'idraulico che dice, signora, è quello il tubo da aggiustare? Taglio. L'idraulico ha aggiustato il tubo, esce e se ne va. Che succede a Grillo? Chicco Testa, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Bene, guardi, ho appena ricevuto una mail di un amico simpatico che fa dei piccoli aforismi quotidiani. Sì. Quello di oggi è: per garantire ampia partecipazione, le consultazioni online hanno riservate agli espulsi. Vabbè, ma tu stai godendo come un pazzo per questa situazione di Grillo, diciamo la verità. Stai godendo, dai, stai godendo. Su, no, Grillo. Ma non è vero. Ma come no? Grande nemico di Grillo. Stai godendo, dai. No, grande nemico. Io non sono nemico di Grillo, lui è nemico mio. Ho detto dall'inizio quello che secondo me sarebbe successo. Cioè, il disfacimento totale? Ma non lo so se sarà un disfacimento totale o no, ma un movimento politico per esistere ha bisogno, prima di tutto, di idee strutturate. Io vorrei sapere quali sono le idee di Grillo, perché ho capito, quelle poche che ho capito mi sembrano delle idee assurde. Secondo, ha bisogno di un'organizzazione, sì. Perché quando sei da solo, sei da solo, ma quando si è in cento ci vuole qualcuno che comanda, qualcuno che porta il cibo, qualcuno che pensa alla logistica, eccetera, eccetera, cosa che Grillo rifiuta completamente. Rifiuta l'idea di una classe dirigente. Esatto, di una strutturazione. E terzo ci vuole un lavoro continuo. Che Grillo mi sembra ha dei seri problemi psicologici, mi pare evidente, erano evidenti anche prima, è ammalato di un narcisismo totale ed assoluto. Ma è una roba da psicologia, secondo te? Una roba da psicologo? Beh, c'è anche una parte di psicologia. Onestamente, di leader stravaganti ne abbiamo visti tanti in questo paese, no? Basta citare Bossi o altri ancora. Ma uno, diciamo, di questo livello, veramente è stata una sorpresa. Cioè, ma roba da, cioè, una roba, secondo te, proprio da analisi, cioè da cura quasi? Sì, fra l'altro io non sono d'accordo che i suoi deputati sarebbero rimasti impiegati delle Poste, molti sarebbero, diciamo, probabilmente anche... Poi con tutto il rispetto degli impiegati delle Poste, per carità. Delle Poste, per carità. Sennò poi ci attaccano dicendo che gli impiegati delle Poste li trattiamo male. Hai perfettamente ragione. No, credo che questo sia vero per gli altri, no? I quali invece sono poi entrati in in un partito, hanno costruito una loro identità, una loro carriera, un loro modo di sì, pensare. Sì, però senza questo, dice Parenzo, vale per tutti, no? Il fatto che ci sono i nominati. D'accordo, però il punto è un altro. Senza sì. Beppe Grillo, senza il trascinamento di Beppe Grillo, ma non c'è dubbio, nessuno di questi, cioè, no, sono entrate dei perfetti sconosciuti, gente che non si è trovata da un momento all'altro alla Camera dei Deputati, va benissimo, però adesso non si possono alzare e dire beh no, non va bene il comportamento di Grillo, perché no, Grillo fa le stesse cose che faceva prima, niente di diverso. No, non è vero nemmeno questo, sarebbe no. logico attendersi che una volta ottenuto quel grosso successo elettorale Grillo avesse accettato in un qualche modo di confrontarsi, di mettere sul campo le idee, di darsi una struttura, eccetera, eccetera, come tutti gli organismi viventi, capisci? Invece no, lì c'è un ego ipertrofico che fra l'altro non dà nemmeno indicazioni, non fa politica, non fa niente, se non ripetere a tutto il mondo vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, un po' come i bambini dicono cacca, cacca, cacca. Ma è Parenzo. Chiaro che... è esattamente così, è esattamente così. Cioè la maturità di questo movimento. Ma guarda, no, Parenzo, ma guarda che testa è della lobby delle cose, delle energie, di tutto, per questo sì, parla così. Esatto. È della lobby del nucleare, capito? Ma il nucleare è evidente, ma sono mascalzoni. Cioè? Ma sono dei mascalzoni, ma il nucleare ancora con il nucleare. Ma si deve scaldare con la scatola di fagioli. Energia pulita, prodotta mangiando i fagioli, con l'aerofagia. Ma come l'aerofagia? Vedi che siamo a cacca, no? Ma in Germania mangi i fagioli, la Merkel mangia i fagioli, produce energia, attraverso l'aria che butta fuori scalda l'intero Bundestag. In Germania lo fanno, sono fagioli. Ma non è vero, non è vero, non è così. Ma in Germania è così. Beh, questo te lo diverti. No, ho capito, però scusi Grillo, ma è solo gentaccia come voi che parla di nucleare. Perché dici? Ma il nucleare provoca la morte, ma devi mangiare, ma tu ti mangi una scatoletta di fagioli, ma sai quanta energia produci? Scaldi il Bundestag, vai in Germania, i paesi civili lo fanno. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Il governo delle larghe intese e sentite questi due, Bernini, PDL e Zanonato ad Agorà se le danno di santa ragione. Sentite. Venuta nel mio spazio sotto il salice, non stare. La terapia è abbassare le tasse, vuol dire portare lo spread in alto e avere una spesa pubblica molto maggiore. Non necessariamente. È chiaro? No. Magari fosse no. così, se... ma lo potevate fare quando avete governato. Voi, mi scusi senatrice, abbassare semplice. Le tasse potevate lei farlo, detto, no? Lei ha no, detto non che diciamo cose. Le semplificazioni, questa è, mi perdoni, una banalizzazione che richiederebbe un commento e una discussione molto più ampia. Poi ci sono i super grillini tra i deputati, quelli che fanno muro a favore di Grillo. Questo Fico, che viene considerato una specie di genio da alcuni grillini semplicemente perché ha qualche ideuzza così sulla televisione pubblica e perché uno dei più strutturati, perché ha fatto politica anche prima nei movimenti in Campania, Fico, che è il presidente della commissione di vigilanza Rai, commissione che andrebbe abolita, abolire tutto, commissione di vigilanza non serve a nulla se non a distribuire poltrone, strapuntini, incarichi per poi fare dichiarazioni. Fico, il Parlamento è una tomba maleodorante, quella era l'affermazione di Grillo. Il post di Grillo era di amore, la teoria di Fico. Post era di amore verso il Parlamento, perché ha ragione Beppe Grillo quando dice che questo Parlamento è un Parlamento fermo, è un Parlamento che non funziona, è una tomba maleodorante, ed è la verità, perché questo Parlamento qua ha di media, di iniziativa parlamentare legislativa, l'approvazione di una legge ogni anno e 3 mesi di media. Siamo qui 800 24 00 24 con Chicco Testa, che diciamo la verità, però Testa, lei considera proprio Grillo da ricovero immediato, da ospedale, non si nasconda dietro le parole così, cioè quando sente Grillo, le parole di Grillo che utilizza, quando lo vede con quella faccia, no, che reagisce davanti ai giornalisti eccetera eccetera, pensa questo qua sarebbe da ricovero. Ma no, ma per carità, ognuno è libero di dire e di fare quello che vuole. Gli elettori che lo hanno votato perché evidentemente in quel momento il loro stato d'animo corrispondeva a uno stato d'animo che Grillo esprimeva. È stato un gigantesco, mi spiace ripeterlo, un gigantesco vaffanculo mandato alla classe politica italiana, che per molte parti se lo meritava, diciamocelo chiaramente, no? Però poi far politica è anche un'altra cosa, di tanto in tanto a ciascuno di noi scappa un vaffanculo rispetto alla situazione circostante, al nostro lavoro, a tante cose, dopodiché abbassiamo la testa e cerchiamo di ripartire, di ricostruire, di legare insieme, di trovare delle soluzioni. Ma come finirà? Cosa. Come finirà secondo te? Non lo so, secondo me sta cominciando a trovare, vede, ancora sulla similitudine con gli impiegati delle poste, scusandoci ancora gli impiegati delle poste. Sì. Secondo me, invece, nel suo gruppo incominciano ad emergere delle personalità, delle persone che perlomeno, mi scusi, dal punto di vista del rispetto di se stessi, non accettano, diciamo, di essere condotti per il naso se fossero dei ragazzini indisciplinati. Ma non è che può succedere che ci sono dei dissidenti e fanno cadere il governo Berlusconi, fanno un governo insieme al Partito Democratico, cioè il Partito Democratico torna all'idea originaria di fare un governo... Ma guarda, questo non lo so, non sono in grado. Secondo me il Partito Democratico farebbe un errore, l'ennesimo errore, quello di seguire sempre i dissidenti grillini. Qualche movimento di protesta da qualche parte, e pensando in questo modo di recuperare chissà che cosa. Il Partito Democratico faccia la sua politica, Letta abolisca il finanziamento pubblico dei partiti, cosa che deve fare, abolisca una montagna di roba di cui non abbiamo assolutamente bisogno, a cominciare dalla commissione di vigilanza. È un po', è un po' lento questo governo, è un po' lentino. Allora, sai, in mare, come lei sai, io ho una passioncella che è quella di andare a cavallo, no? Sì, sì. E in Maremma il buttero, quando doma un cavallo, dice che bisogna farlo avanzare il cavallo, perché se non avanza e si ferma e comincia a sgroppare e cerca di buttarti giù, no? Sì. Ecco, Letta è seduto su un cavallo, se lo fa avanzare, un cavallo che sta cercando di domare, se lo fa avanzare, se cioè ogni giorno fa qualche cosa di positivo, resterà in sella. Se si ferma, è chiaro che verrà sgroppato in 3 minuti. La metafora è bella, però in questo momento mi sembra, non dico che è fermo, però insomma avanza molto, molto, molto, molto lentamente. Molto lentamente. Molto lentamente. Ma lei ha votato a Roma? Testa? No, io sono cittadino di Manciano. Però vivo a Roma alcuni giorni della settimana, quindi certo mi interessa molto la situazione romana. Ma Marino l'avrebbe votato, sì? Sì, l'avrei votato Marino. Non è il mio candidato ideale. Mi sembra una persona molto astratta, sempre sorridente, molto attaccato ai principi, un po' naif. È molto ingenuo, speriamo che impari ad amministrare, che capisca che governare una città significa tenere puliti i cessi pubblici, riparare le strade per terra, ripulire la città, eccetera, eccetera, e non sempre così, sparate, siamo capaci un po' tutti di farli. Ciao, grazie, ciao Chico, ciao. Alessandro da Roma, Alessandro, buonasera, dica. Dai Alessandro, pronto? Via, su. Da Siena, non da Roma. Sì, da Siena, bene. Ci sono due Alessandro. Allora, io devo ringraziare la radio che mi hanno ripreso da ieri sera perché mi cadeva la linea. E vorrei dirti questo, però mi devi fare esprimere il mio concetto e poi ti rispondi. Allora, il concetto è questo. Te sostieni che la senatrice Gambaro non era nessuno senza Grillo. No, io non ho detto che non era nessuno. Come? Lei. Ho usato un'espressione infelice di cui mi scuso con la senatrice Gambaro, perché poi in realtà è una validissima professionista, ma non è questo il punto. Ho detto che politicamente esatto. Senza allora, Grillo queste persone non sono nulla, perché sono arrivati in Parlamento. Gli altri pure sono stati nominati, per carità, però c'è una differenza secondo me. Scusami. Allora, la domanda ti pongo è questo. 25 anni fa, chi era Maroni senza Bossi? Un tranquillo cittadino di Varese che camminava, ha trovato una persona come Bossi che l'ha portato in politica e ha fatto il suo percorso. La Gambaro è un Maroni, per esempio, di oggi. Quindi tra 20 anni la Gambaro potrebbe aver fatto il suo percorso come ha fatto Io sto dicendo, siccome si è arrivato in Parlamento sull'onda di un signore che diceva le stesse cose che dice adesso, non molto diverse, trovo assurdo dire Grillo la smetta di fare quello che fa, perché proprio per quello che fa tu sei arrivato in Parlamento. Ci sentiamo dopo il giornale radio, La Zanzara, 800 24 00 24. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è, pure lo spray, a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me, e balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, prendila, prendila. Il capo dell'esercito di Silvio dice che adesso prenderanno a fucilate quelli del PDL, cioè non vogliono più proteggere, non vogliono più proteggere Berlusconi nei comizi, ma dicono che dopo il risultato elettorale prenderanno a fucilate quelli del PDL o comunque a calci nel culo. Devo dire la verità, ho fatto mia colpa. A calci nel culo, a sbeve non bisogna prendere quelli di sinistra, perché poverini sono anche, voglio dire... Sì, durante le manifestazioni, sì. Ma bisogna prendere a calci nel culo i nostri dirigenti. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. La rivoluzione va fatta all'interno. Bisogna cambiarli tutti. Ha beccato come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. E balli su twist, e balli su twist, la danza la twist. Ho ascoltato il commento a questa disfatta elettorale, che è tragica. I commenti l'hanno fatti Cicchitto, Gasparri. Sì. Cicchitto ha detto una cosa meravigliosa, che senza Berlusconi non si vince, che forse bisogna radicare un po' il partito, che bisogna forse fare le primarie, una roba da, mi veniva il vomito, cioè mi sono dovuto fermare, scendere dalla macchina, come dice un mio amico, fare un giro attorno alla macchina, perché non ce la facevo più, ho preso a calci la mia macchina, non è possibile. Titoli del TG3, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3. Di Bersani. Letta al congresso CISL, senza lavoro l'Italia non si salva. Bonanni, serve uno shock fiscale, il paese è al collasso. Napolitano, drammatica la caduta dell'occupazione. Confcommercio, l'aumento dell'IVA va scongiurato. Zanonato, niente promesse. E i commercianti fischiano il ministro dello sviluppo. Esprimo tutta la mia amarezza. Così il ministro della difesa in un'aula della Camera semideserta per l'informativa sulla morte in Afghanistan del capitano De Rosa. Caso Gambaro, dopo l'anatema del leader e tensione tra i parlamentari 5 Stelle. La senatrice, non me ne vado. Grillo contro di me, 5 Stelle, dichiarazioni false e lesive. E il CSM apre una procedura di trasferimento per il procuratore di Palermo Messineo. Gestione debole e fece sfumare la cattura del latitante Messina Denaro. Per presunte tangenti nella sanità abruzzese, il PM di Pescara chiede 12 anni per l'ex governatore del Turco, una vicenda giudiziaria controversa iniziata nel 2008. E in Turchia il premier Erdogan non fa concessioni alla rivolta. Un'altra notte di guerriglia di Istanbul. Critiche dalla comunità internazionale. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è la mia tutto, cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi, ma che mondo è questo? Buon anno, quello del Grana Padano ed altre cose, dice in aula che gli insegnanti a scuola devono insegnare l'enogastronomia del luogo. Buon anno. Dobbiamo cercare di innanzitutto avere insegnanti, e noi siamo come Lega Nord per avere una graduatoria sempre di più regionale, che gli insegnanti siano del luogo e che possano insegnare veramente la cultura, il modo di vivere, l'enogastronomia, il fatto di essere sul territorio, e che facciano in modo appunto che la scuola diventi una vera risorsa. A scuola vanno certi insegnanti con certi giornali. E quindi ci vogliono insegnanti anche, mi perdoni se lo dico, che siano meno politicizzati. Certo, non è che sono tutti così, ma c'è una parte di scuola dove l'insegnante è casualmente di una certa parte politica, e casualmente va a scuola con un certo quotidiano, e casualmente fanno leggere quel certo quotidiano, e casualmente magari parlano male dell'amministrazione, che non sono di quel colore politico. Tutto questo alla Camera, eh? Buon anno, ti amo, se non ci fossi tu. Buon anno, ti amo. Beh, Gentilini, ti amo, Gentilini, ti lo amo, lo amo, lo amo. Meno male che non è al governo e che non fa il ministro della pubblica istruzione, così il signor Bonanno si occupa, sì, così di effetti speciali, facendoci sorridere, alzandosi alla Camera e proponendo questa puttanata dell'insegnamento dell'enogastronomia. Cioè, ma ti rendi conto che questo qui vorrebbe fare i programmi scolastici dei ragazzi che dovranno prendere in mano sto paese del futuro? Ma che mondo! Gentilini, è finita, farò il cittadino non bolscevico. È finita, avete finito di fare gli scoop con Gentilini. Ma lei adesso che cosa farà, Gentilini? Il libero cittadino non bolscevico. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Finalmente ci siamo deconfusionizzati, ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, sì. Ieri ci siamo detti delle cose molto precise, sì. Punti fermi da cui ripartire, bene. Impegni precisi, cose condivise da tutti. Bene. Ma io veramente l'ho mandato a cagare, ecco di preciso forse ho visto quello, ciao Manani. Figlia della libertà. Paolo da Bologna, buonasera Paolo. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzi. Dica. Niente, la mia telefonata riguarda il comportamento della signora Gambaro, che mi sembra improntato al più grande opportunismo, perché come dice lei stesso, Grillo uno lo conosceva anche prima di questa situazione, per cui va bene se queste critiche vengono fatte da qualcuno che non è in linea o contro il movimento, però dall'interno, da una militante, ci si aspetta un comportamento più consono a quello che era stato affermato prima. Io chiedo una cosa, forse voi mi potete aiutare. Parenzo, cosa hai di rispondere a questo Paolo? A Paolo? Non stavi sentendo. Pronto? Un cazzo, dai. Paolo, continui, su, continui, va continui. Bene, non, allora, Parenzo non sente un cazzo, dai, su, può dire quello che vuole, non stavo ascoltando una mazza. La seconda parte del mio intervento era questo, volevo chiedervi se come vedete voi, visto che stanno parlando adesso di una nuova legge elettorale, una norma che preveda che quando qualsiasi componente di qualche schieramento, in questo caso la signora Gambaro, ma prima era successo con altri, per esempio... Ma guardi, il problema, ma lei vuole dire che non si deve dimettere dal Parlamento se esce dal gruppo, questo vuole dire? Sì, a parte questo... Sì, Paolo, già è prevedibile quello che le dice. Questa qua è una stupidaggine, francamente è una stupidaggine, perché non c'entra niente... Ma io chiedevo se per caso si dimette un parlamentare che durante il mandato tiene un comportamento di questo tipo, a prescindere di quale coalizione sia, perché non si prevede che il gruppo di cui fa parte, fino al cambiamento d'opinione, non preveda il cambio della parlamentare con qualcuno che mantenga la linea del programma elettorale. Ma non si può fare una cosa del genere, è contro la Costituzione, è contro qualsiasi cosa, non si può prevedere che uno debba rimanere ingabbiato, uno deve fare quello che vuole nella vita, cioè, poi risponde davanti ai suoi elettori, ma in questo caso il problema non è rimanere in Parlamento, come rimanere, no? Come non rimanere, dimettersi dal gruppo oppure dimettersi dal Parlamento. Il problema è che questi signori qui sono stati eletti sull'onda di Grillo, il quale non dice delle cose diverse da quelle che diceva prima, dice le stesse cose, usa gli stessi toni, usa le stesse parole, no, contro i partiti critica... e contro le cose. Sì, ho capito, la critica qual è? Avanti, ti sei risvegliato dal torpore, dimmi. Alcuni dai. Hanno osato mettere il discorso dopo il risultato elettorale, è normale che ci sia la resa dei conti nei partiti normali, nei movimenti. Ma non è un partito così. Normale, Giacomo da Milano, allora, Giacomo da Milano, ma dici delle cose banali, su, normale. Dai, ma non è vero, chi lo dice? Mi dispiace, già, ma dici delle cose banali, Giacomo da Milano. La signora Gambaro sta provando a trasformare. Sì, la signora Gambaro sta provando a trasformare. Giacomo da Milano, dai. Lei come altri? Pronto. Sì, dica, parli pronto, lei. Pronto, Cruciani, Parenza. Sì. Parenzo, sono in linea? Sì, sì. Sono in linea? Molto, molto brevemente, mi ha dato una bellissima Tra l'altro, idea. La senatrice Gambaro dice, se Grillo mi minaccia, lo denuncio. Se Grillo mi minaccia, lo denuncio. E dice anche che Grillo deve chiedere scuse per quello che ha detto. Giacomo. Ma che se ne frega di tutti questi personaggi qui, ma parliamo di cose un po' più concrete. Io vi faccio solo una proposta, mi ha dato l'idea il vostro collega che c'era prima, ma perché non dedicate 5 minuti, poi lei vi potrà dire sì o no, se le piace o meno. 5 minuti a che cosa? Sera, sì. 5 minuti a fare tipo Monte Risparmi, cioè tu, il suo collega che c'era ma prima. Ma lei è impazzito? Aspetti un momento. Ha detto, ma il collega chi c'era prima? Chi? Ma chi se ne frega? Ma si sente un'altra trasmissione? trasmissione. Milioni, 300 milioni che perde fino adesso l'Italia, 200 milioni. Ma lei l'ha ascoltato prima, no? L'ha ascoltato prima. Sì, ma dico, ma perché non dedicate e mettiamo insieme tutte le sere, faccio un monte risparmi, monte quanto risparmi si potrebbe risparmiare anziché andare lì a mettere l'IVA e compagnia bella. Io sono convinto che in 10 giorni si riescono a mettere in fila tanti di quei soldi per evitare un sacco di manovre alternative. Chi se ne frega di sti pagliacci, la Gambaro, di qua e di là, tanto non fanno altro che parlare, non risolvono mai un tubo di niente. Comunque siete fantastici. Emanuele da Reggio Emilia, buonasera. Emanuele da Reggio Emilia. Buonasera Crociani, buonasera Parenzo, che mi sta un po' più simpatico questo, vabbè, soggettivo. No, due cose velocissime. Una, volevo chiedere Crociani se il modo in cui è cambiata la trasmissione da qualche anno fa a oggi è una... possiamo parlare di un'altra cosa? Possiamo parlare di altro, Emanuele? Possiamo parlare di altro oppure dobbiamo parlare di queste stronzate? Stronzate? Non ho ancora detto niente, cosa ho detto? Sì, ma lei vuole chiedere che cosa? Come è cambiata la trasmissione? Come non è cambiata? No, se lei si arroga il merito di come è cambiata la trasmissione da qualche anno fa ad oggi... Ma questo non è un convegno, un convegno dedicato alle radio, alla televisione, è una trasmissione. Parli di un'altra cosa, ma di che parliamo? No, ma se il merito è suo... Se ma non lo so, il merito di nessuno. Gliel'hanno imposto, lei è libero e ha scelto di fare la trasmissione in questo modo. Ma lei è malato di me, lei mi sa che è malato, cioè credo che lei abbia una grave malattia, cioè una grave malattia che è la cretinaggine. Cioè, Emanuele, ma non c'è dubbio, cioè, ma chi imposto chi? Ma imposto da chi? No, imposto chi? Chi mi dovrebbe imporre qualcosa? Chi? Sono contento che lei è libero. Mi conferma che lei è libero, quindi il formato... Divento pazzo io. Imposto da chi? Ma siete malati di dietrologia? Imposto da chi? No, va bene, quindi lei è libero, bene, sono contento. Lei è libero, ma che cosa pensava prima? Che fossi che cosa? Prigioniero di qualcuno? Che qualcuno mi dettasse la linea? Che cosa pensava? Si decide in redazione che per motivi commerciali si fa una cosa. Per motivi commerciali, che devo sentire, per motivi commerciali. Voi siete malati, cioè avete una malattia che è quella della dietrologia, pensate sempre che dietro ci sia chissà che quale complotto. Anche se avessi deciso in base a motivi commerciali, cosa ci sarebbe di male? Con il suo prodotto e le sue strategie. No, ma voglio dire, anche se avessi deciso in base a quello a quelle che le chiama delle... Ma va bene, era solo una domanda, lei mi ha risposto, passo oltre. Vada. L'altra cosa le volevo chiedere riguardo a... Sì, vabbè, è un attimo solo, abbiamo la borsa, resti lì, Io vi adoro, ogni giorno vorrei fare la zanzara. La zanzara. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E laica, e laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu, Ceausescu, ciao Iuescu, dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. Sì, c'è in omaggio lo stregone Rasputin. Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Zanzara, zanzara. Vittorio? Oh, eccolo, sono qua. Eccoci qui. Allora, che dire su questo risultato del PDL innanzitutto? Che era inevitabile, no? Perché avendo scelto soltanto degli incapaci, come hanno fatto ogni volta, soltanto l'idea di candidare di nuovo Alemanno, dopo che Alemanno aveva chiesto le primarie, voleva stare con Monti, aveva fatto l'assemblea contro Berlusconi, vuol dire che o Berlusconi è distratto, o sta sulla luna, o non gliene frega niente di vincere in una città o in un'altra. Lì il ritratto ideale c'era, con una lista civica, potevano indicare Marchini e se la giocava con Marino. Sì. Ma l'idea di candidare per forza Alemanno, non si capisce in che cosa corrispondente a nulla che abbia a che fare con il mondo di Berlusconi, se non per essere stato un fascista che poi tra l'altro ha fatto di tutto per rinnegare il suo passato. Insomma, non lo so, una cosa... Ma che ha fatto Alemanno, per esempio, per la cultura a Roma? Tu che sei troppo... Nulla, appunto, ha fatto soltanto delle stupidaggini, si è fatto incartare da Croppi, che era uno di destra, che era compreso della sinistra, ha lodato l'inverosimile Croppi, la stessa Arapacis che io avevo invece con Alemanno indicato come un orrore. E quindi è tutta una contraddizione, gente senza... A Roma Alemanno è una cosa di una tale volgarità, l'idea di averlo avuto come sindaco. Dici? Bisogna poi di riproporlo. Ma adesso lo dici? No, l'ha sempre detto. No, ma che cazzo dici, Parenzo, imbecille? L'ha sempre detto, stupido. Adesso lo dici, adesso l'ho sempre detto, l'ho sempre attaccato da quando è stato indicato. Subito. La Rapaci, se non ti ricordi, Parenzo, tutta la Parenzo. Ma è tutta roba vecchia. Uomo ovvio, uomo banale e stupido. Quello è lui. Vado a vedere quello che mi ma hai visto che Isabella Rauti è stata messa come consulente al femminicidio? No, a un certo punto con Parenzo, quando dovranno liquidare qualcosa, lo metteranno a fare anche lui qualche posto per raccomandato, protetto, quella cosa che gli tocca. Ma scusa, Isabella, la cosa curiosa è che Berlusconi, secondo Sgarbi, sbaglia sempre dopo quando perde. Perché no, prima invece come tanto è vero che io non ho mai appoggiato Alemanno dopo l'inizio della sua attività, questa volta ho appoggiato Marchini, quindi non so di cosa stai parlando. Ma lui non sa, lui Marchini, l'unica cosa in cui non sbaglia è stare con delle ragazze. E sull'attività di Berlusconi a letto sarà sempre per me una dimostrazione di follia della magistratura, quindi basta, l'unica cosa su cui lo difendo politicamente, che l'ha mai difeso, mi ha cacciato la Moratti, mi ha cacciato lui, che cazzo dici? A te ti devono cacciare a pedate, ignorante e capra che non sei altro. Scusami Vittorio, ma Isabella Isabella Rauti messa all'ufficio di Alfano per il femminicidio. Cosa... A parte che il femminicidio è un'altra cosa che lo c'è l'omicidio, non si capisce perché il femminicidio. Allora, quando una viene ucciso un omosessuale, che cos'è? L'omo omicidio, che cos'è? Cioè non capisco. L'omicidio è omicidio grave sempre. Il femminicidio è un'invenzione di menti baccate, giusto, vanno bene per Parenzo, per cui se una donna l'ha ucciso una donna è femminicidio? Cioè, no, una donna. Ma quanto hai ragione, quanto hai ragione, quanto un cretino come Parenzo potete postare dalla parte del femminicidio. Sì, ma non esiste. Una donna ucciso una donna. No, ma allora che cos'è? Ma non esiste il femminicidio, esiste l'omicidio. Esiste l'omicidio, punto e basta. L'omicidio aggravato da motivazioni tali che possono essere legate anche a questioni legate alle... Ma è evidente che il femminicidio è una cretinata, quindi è giusto che ci mandino una zucca vuota come la moglie di Alemanno, no? Ah, tu dici. Poi è più vuoto ancora, una zucca vuotissima. Che al Ministero degli Interni? Sì, al Ministero degli Interni, sì. Ma tu pensa, se c'è una cosa che non si può guardare, sì, sono gli uomini di Berlusconi, si possono guardare le donne di Berlusconi. Cioè la Minetti vale 700 volte Alfano. No, dai! 100 volte, sì. Anche la punta, cioè, il mio pensiero è questo. Quindi non penserà Parenzo di trovarmi su una posizione diversa da quella che ho sempre detto. Cioè vale la Minetti, no, ma tu adorando le iperbole, è chiaro, cioè, che la Minetti adesso... la Minetti vale 700 volte Alfano. 700 volte Alfano, sì. Cioè, ma per cui dal punto di vista, quindi dove è finito il partito? Vedi dove è finito il premio, finito il partito, cioè non hanno vinto una sola città. Ma ti pare possibile che non siano in grado di vincere niente? Nulla. Ma forse forse Berlusconi se n'è fottuto. Anche se si impegnavano, l'avrei fatto molto, ma dovrei impegnarsi a trovare dei candidati con delle facce nuove. Per il mio candidato è Parenzo. Parenzo sembra un ottimo candidato per Gorizia. Ottimo. Sarebbe perfetto. Poi poteva candidare te. Cioè, uno deve candidare delle facce nuove. Però non è vero che tu politicamente non hai mai difeso Berlusconi, dai, su. Cioè. No, non è vero che non difendo Berlusconi politicamente. L'ho sempre difeso su queste questioni qua. Se tu vuoi far cagare uno sul caso Rubi... Dico, no, sul caso Rubi, vabbè, d'accordo, sul caso Rubi lo sappiamo, ma anche... Questo, su cosa cade? Perché è caduto il suo governo? Perché era impresentabile in quanto, essendo un porco davanti al mondo, risultava improponibile. Quando, sì. Perché Fini se n'è andato? Perché Fini ha perso la testa per quella ragazza lì, come si chiama, la Tugliani. La Tugliani, sì. Lei ha perso la testa. E siccome pensava che quella cosa fosse una cosa seria, sì, vedeva Berlusconi come un puttaniere. Ma quando mai si fa la storia con i puttanieri e non puttanieri? Questo ha fatto la magistratura, inventare un maiale. Però scusa un attimo, ma questa storia del femminicidio mi fa impazzire. Anch'io considero il femminicidio una stronzata pazzesca. Tutta... Se Fini non se ne fosse andato dalla maggioranza, sarebbero ancora tranquillamente al governo. Sì, quindi sì. È tutto moralismo, sono tutti atteggiamenti vedo il moralismo. Perché non si era accorto prima, quando Fini attaccava i giudici con Berlusconi, sì, non si era accorto prima di quello che era Berlusconi. Vabbè, ma ormai è roba vecchia. Invece mi interessa molto il tuo parere sul femminicidio, questa stronzata che femminicidio si sono inventato. È un inventore di menti turbate, come sì, il matrimonio gay, tutte invenzioni. Cioè, il matrimonio sarà una puttanata, ne vanno liberati gli eterosessuali. Bisogna liberare gli eterosessuali. E vabbè, d'accordo. Non è un diritto, è un contratto. Ma scusa, la Minetti innamorata di Berlusconi, come la vedi invece? Ma quella è una cosa possibile, non ci sono puttane che si innamorano? Non ho capito, perché la Minetti non può amare, perché è considerata una puttana. No, l'amore è qualcosa che deriva dalla considerazione, dalla stima, siccome molte donne... Cioè anche le puttane, tu dici, anche le puttane si possono innamorare? Appunto, ma non che lo sia lei una puttana, vabbè, volevo dire dice, che non si può pensare che non si innamora perché la si accusa di essere stata lui per qualche vantaggio. L'interesse in amore è previsto. amava o non amava Sofia Loren Ponti? Probabilmente sì. Amava o non amava Jackie Kennedy Onassis? Probabilmente sì. Se poi aveva anche l'interesse dell'uomo di potere, chi se ne frega, certo, fa parte dell'amore. Fa parte dell'amore, no, certo. Ma quello si parente, chiama fascino, non interesse. Come una campana. Come si fa ad amare parenti? È impossibile. Devi amare qualcuno che abbia qualcosa, che sia il potere, che sia... Cioè, amare Parenzo è possibile amare? O no? Amare Parenzo è possibile? È impossibile, perché è il vuoto spinto. Puoi spingerlo. Ciao Vittorio, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Mauro dalla provincia di Chieti. Mauro, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Senta, le volevo chiedere, ma è una domanda rapidissima, ma lei stima Parenzo? Secondo lei? No, infatti, se gli faccio questa domanda è perché ho questo dubbio. No, ma mi risponda, mi risponda. Secondo me è probabile di sì, perché se lo tiene in trasmissione... Ma no, si è dato la risposta da solo, allora? Allora, niente, finito. Cioè, mi voleva fare solo questa domanda, scusi? Solo questa domanda, sì. Era un dubbio. Ma perché me lo chiede, scusi? No, perché, diciamo, io sotto certi aspetti, pur disprezzandola... l'aspetto ideologico, io a lei la rispetto. E invece? Ma invece mi sembra che Parenzo sia proprio un omucolo, un personaggio grande, basso, senza... Un omucolo. Un omucolo, sì. Ma perché un omucolo? A parte se dice omucolo. Non c'è nessuna mancanza di rispetto in quello che dico, io rispetto tutti. No, ma figuriamoci. No, ma figuriamoci, però si dice omuncolo in italiano. Va bene, bravo. No, la correggo sull'italiano, cioè si dice, siccome lei sono mesi che si era preparata, questa considerazione. Ma non adesso, dai, allora, siccome è rimasto lì dei mesi, lei a pensare di adesso chiamo e glielo dico. Adesso compongo l'800 24 006 e glielo dico. Allora stasera si è avvicinato timidamente al suo cellulare, lo ha preso in mano, ha detto adesso però glielo dico. Allora ha composto il numero 800 24 00 24, il centralino della Radio 24 ha risposto e lei, devo dire una cosa a Parenzo, l'hanno passata in diretta, mesi che covava questa riflessione ed è riuscito a sbagliarla. Poco male. Per fare lo zerbino, non hai nessuna voce in capitolo. Poco male, riprova. Dice quando riprova. Vuole. Rimugini per altri mesi il pensiero, poi riprenda tra qualche mese il telefono e dice, devo chiamare Radio 24, allora riprenderà il suo bel telefono 800 24 00 24, devo ridirglielo. Squilla, il centrino della radio risponde e lei dirà, devo dire una cosa, e speriamo che sia più fortunato se non altro della composizione della frase. Mauro, allora? Sei un omuncolo. Ora l'hai imparato, ora meglio, già meglio. 30 secondi, torniamo subito. La zanzara. Ernesto da Roma, buonasera Ernesto. Pronto Cruciani, buonasera. Oh, mitico, come sta? Senta, io sto bene, voi. Ma lei come cazzo fa? Come state? Scusi, noi che siamo bisex come stiamo? Noi stiamo benissimo, a parte che non siamo affatto bisex. E poi scusi un attimo, mi vuole spiegare lei come cazzo... Scusi Ernesto, come cazzo fa lei a chiamare nonostante il mese di blocco che c'è con le telefonate? Scusi Ernesto. Ma è perché è passato un mese dall'ultima volta. Ma che un mese? Ma lei c'ha 4-5 schede telefoniche, imbroglione. Ma non è vero, no, non è sempre... Senta, comunque Cruciani, la volevo investire, lei, il suo mitico sottopancia Parenzo, di un importante compito, la promozione della pillola etero. Cioè? La pillola etero sarebbe, se viene scoperta, è quella pillola che consente, attraverso l'assunzione della stessa, agli omosessuali di diventare etero, di guarire da questa loro... Ma non esiste nessuna pillola, lei è malato di mente, Ernesto, non esiste nessuna pillola. Ma guardi che è una cosa importante, Cruciani. perché salveremmo l'umanità dall'estinzione, perché fra 200-300 anni, se diventano tutti froci, chi è che fa sti figli? Parenzo, e paradossalmente si estinguerebbero anche i gay. Parenzo, quindi, vuoi dire qualcosa a quest'altro che è fissato? Datemi una mano. Lui, poverino, la cosa drammatica è che questo ci crede veramente, la gravità, di questo, il dispiacere che provoca ai suoi familiari, a se stesso no, perché non è capace di intendere di volere, ma io immagino il dispiacere delle persone che lo conoscono, che lo ascoltano, cioè il dispiacere di chi accende la radio e lo sente, no? E io dicevo, io questo qui veramente non lo... Ma io dicevo, questo qui è il mio amico, no, cazzo, l'ho mai visto prima. Cioè il dispiacere dei genitori che scoprono di avere un figlio gay. A quello, ecco, dei no, fratelli, delle ma sorelle, il dispiacere, il dispiacere di chi la conosce, capito? Io in questo momento questa pillola etero, che lei non ma quale pillola etero? Non esiste questa pillola etero. Infatti, Ernesto, bisogna inventarla, e voi vi dovete fare promotori di questa ricerca scientifica che salva la conservazione della specie, dell'umanità. Ma lei è e malato di mente dalla procedutine. Vabbè, aspetti un attimo, Ernesto, fermo lì, eh. Gianfranco Rotondi è con noi, PDL, buonasera Rotondi, come sta? Guardi, caro? Salve, bene. Come andiamo? Combattiamo? Ha visto che succede nel movimento di Grillo? Ma no, quello è un movimento che va ad orario, quindi mi deve aggiornare. Ma come va ad orario, scusi? Ne tirano via uno all'ora, quindi chi è l'ultimo? Appunto, no, niente, nel senso che addirittura questa senatrice è minacciata di espulsione perché ha espresso delle critiche a Grillo, dice che se Grillo continua addirittura potrebbe denunciarlo. Cioè, siamo a questi livelli. Ma chi ha ragione? Grillo che dice vabbè, io vi ho portato qua e state zitti, in sostanza, oppure quelli che adesso alzano il dito solamente perché hanno perso qualche voto? Ma Grillo è un comico, e il comico insegue i paradossi, quindi legge la realtà con un paradosso. Quindi il paradosso è che lui ha portato una serie di persone che non facevano politica in Parlamento, e quindi da una parte dice vi ho portato con i voti miei. Sì. E il paradosso è che la realtà di cui Grillo è un paradosso alla fine è uguale, perché nella Seconda Repubblica tutti i partiti sono fatti da un capo che domanda i voti e scrive delle liste in funzione delle quali porta in Parlamento chi vuole. Quindi Grillo è l'estremo di un andazzo che però appartiene a tutti i partiti. Sì, d'accordo, però lei è sempre stato uno di quelli che ha difeso Grillo dagli attacchi, eccetera. In questo frangente qui fa bene a cacciare le persone che alzano il ditino o no? Senta, è un fatto di temperamento ed educazione, nel senso che fa in maniera urlata, come è il suo stile, quello che gli altri partiti fanno con la vasellina. Lei dice quello che... Cioè, quello che gli altri fanno, non ho capito. Voglio dire, sa, negli altri partiti c'è l'unzione dei dissidenti. Lei sa pensare. Questa qui si sbattono fuori senza vasellina, con il calcione classico. Che è quasi meglio, dice lei, no? Ma se devo dire, come analista politico, direi è la stessa cosa. Noi abbiamo due modelli di partito. Uffa dire che sono quelli della Prima Repubblica, basta cazzate, sono quelli che in Europa esistono ancora. In Germania, dove la lista è bloccata come in Italia, la differenza nella scelta dei deputati è che qui si mettono in ogni partito uno, due, tre persone in una stanza chiusa e scrivono le liste. E in Germania, dove si usano ancora quella cosa pedante e noiosa che sono i congressi, avviene che in coda alla giornata congressuale i delegati votano l'ordine di presentazione dei candidati. Quindi chi prende più voti dei delegati va al numero uno, chi ne prende meno va al numero due, e così a scendere. Scusi, ma lei non è che pensava a Rotondi stesso quando parlava dei dissidenti del PDL, no? Ma io non sono un dissidente, anzi io sono guardato con sospetto. Perché? Per eccesso di consenso. Ah, consenso, sono tondi, non è male. Che vuol dire eccesso di consenso? Nel senso che non litigo con nessuno e quindi mi guardano con sospetto. Però non non la invitano più da nessuna parte. E perché saranno arrivati a questa conclusione? Questo qui parla bene di Alfano. Allora sarà con Alfano. Dopodiché vanno a leggere che parlo bene anche di Verdini, allora dicono Gesù, questo non sta. né con Alfano né con né con i falchi né con le colombe. Lei sta bene con tutti, parla bene di Berlusconi, oddio, e allora che ci fa in mezzo a noi? Perché lì sono metà che tirano per i falchi, metà per le colombe. Ecco, ma chi è il capo dei falchi? Ma non saprei, perché i falchi, diciamo così, sono uccelli solitari, quindi non è che sono tanto facili da veder volare. Ma è vero che sti falchi dicono che in pratica Alfano al governo vuole tradire Berlusconi, che vorrebbe fare addirittura un partito con Letta? Ma Alfano, se avesse voluto tradire Berlusconi, ne avrebbe avuto qualche occasione, anche recente. Forse ci ha anche provato. Una polemica fuori luogo. E francamente io non credo che falchi e colombe senza Berlusconi abbiano un futuro molto diverso da una rosolata sullo spiedo gli uni e le altre. Scusi un attimo, per cui praticamente voi siete come i deputati grillini, cioè loro senza Grillo non sono nulla, no, voi senza perché, Berlusconi? No, perché premesso che tutti i partiti hanno un padrone e il Partito Democratico addirittura due, perché c'è Bersani che mette Epifani lì e Renzi da fuori che dice non li credete quei due, perché è uno strano partito che c'ha. Vabbè, però parliamo del PDL, alt, no del PD. Alt, no, dedichiamo anche un'attenzione al PD. Vabbè, ma chi se ne frega? È gradevolissimo, c'è un segretario che se ne va, però sì. Mette un altro. Sì. C'è un altro che sarebbe il segretario. C'è a Palazzo Chigi un altro che è stato messo lì e ce n'è un altro da fuori che dice quel posto è mio, quello lì non lo prendete sul serio. Ora, che nel PDL ci sia uno che decide per tutti, io me lo auguro che sia ancora così, perché finché c'è stato abbiamo concorso anche però, noi. Scusi, senza vittoria. Berlusconi voi che cosa siete? Senza Berlusconi siamo tante rispettabili persone che probabilmente si saluterebbero senza scambiarsi i numeri di telefono. Cioè non esistere... Cioè, no, perché Berlusconi è una democrazia cristiana a conduzione individuale. Nel senso che mentre la DC aveva tante correnti, tanti capi, Berlusconi ha fatto il miracolo di passare dall'acquisto della Stand, sì, del Milan all'acquisto della Democrazia Cristiana e del Pentapartito. Però... è sceso nel 94 sul mercato e si è comprato i cinque partiti. Però voi esistereste o no? Vogliamo... Senza no, Berlusconi no. Esistereste o no? No, assolutamente il PDL, come lei lo osserva, senza Berlusconi non ha ragione di esistere. Non mi chieda se esisterà Rotondi, perché vabbè, naturalmente potrei per cui possiamo, da questo punto di vista, ecco, potrei dare una risposta presuntuosa. Però da questo punto di vista, da questo punto di vista siete uguali ai grillini, cioè senza Berlusconi. No, ma è come no, no. Uguale, identico, dai. E la differenza sta nel fatto che quello lì è uno che si è subito, come dire, messo a sbroccare perché magari non sopporta le fatiche della politica. Berlusconi è uno che, venendo dalla televisione commerciale, dal mecenatismo dell'industria culturale, ha una capacità di guida di un partito, perché il dissenso per lui è arricchimento. Cioè un Berlusconi, se vai lì e gli dici stai dicendo una cazzata, non ti sbatte fuori, ma chiude la porta e ti ascolta con più attenzione. Torniamo subito, pubblicità. Ma qual è l'obiettivo vero della vostra trasmissione? La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Eccoci qui, 800 24 00 24. Fra poco torniamo dagli ascoltatori. Intanto Gianfranco Rotondi, PDL, deputato. Rotondi, 16-0 il risultato dell'amministrativa. Qualcuno pensa di rifare Forza Italia, vuole rottamare il partito. Indietro per indietro io rifarei la Democrazia Cristiana. Ma ancora con sta Democrazia Cristiana, Rotondi? Io l'ultimo risultato della Democrazia Cristiana, quello dopo il quale si disse chiudiamo bottega, fu del 30%. Vabbè, ho capito, ma non si può più rifare la Democrazia Cristiana, Rotondi? Sicuri Forza Italia, che era molto più fragile della DC, quindi penso che indietro non si torna mai. Vabbè, ma è vero che Berlusconi vuole fare un nuovo partito, che già c'è una specie di progetto fatto dalla Santanchè, da non so chi altro, da Verdini, senta, da Capezzone? Senta, lei non la informano, non mi informano, ma non me ne frega niente, perché voglio dire, finché c'è Berlusconi si candida, prende i voti e vince. Dice, perché può essere Forza Italia, PDL. Italia, quello... ecco, si fida di lui. Ecco. Il tema è se Berlusconi decide mi sono rotto le scatole, ma questo è un discorso che non mi sembra attuale perché lo vedo sul pezzo. Cioè, finché c'è Berlusconi, lei dice si può chiamare Forza Italia, si può chiamare Pinco Pallo, o sbaglio? Questa è la forza ed è anche la sconfitta, naturalmente, di Berlusconi, perché lui ha creduto nell'idea di fare un partito che, come ha spesso detto, restasse per le generazioni future. Qui ma che gliene frega delle generazioni future? Non ci siamo ancora, ecco. Ma che gliene frega delle generazioni future a Berlusconi? Ma un politico lotta per il potere fino a un certo punto. Scusi, ma lei che ci sta a fare ancora nel PDL? L'ha avuto tante volte, poi lotta per la storia. Ma perché la penso come Berlusconi? Cioè, credo che le sue ricette siano utili all'Italia e se mai avessi un dubbio guardo quelli che sono i concorrenti, gli avversari, e dico scegliamo ancora quello che è meno lontano dalle nostre idee. Cioè, non è perché non sa dove andare? Ma guarda, non è che uno deve andare per forza, perché io quando... Si sta un po' annoiando lei a fare deputato in questa legislatura, mi dica la verità, è una noia mortale. No, assolutamente, fare il deputato è un servizio altissimo perché si rappresenta il popolo, comunque ci si arrivi lì, e naturalmente noi tutti ci arriviamo senza incontrarlo spesso, il popolo. Vabbè, ma insomma, per esempio... Ho capito, però... Dimmi, le persone... No, voglio dire, Rotondi, ormai mi pare di capire... Non lo chiamano, non lo aggiornano su quello che succede nel partito. Lui è lì che difende come l'ultimo samurai Berlusconi come un feticcio. Cioè, addirittura quando... Lei ha ragione, sta dicendo una cosa. Io pensavo che mi guardassero un po' storto perché magari non ero abbastanza berlusconiano. Poi ho capito dopo che nel PDL mi guardavano storto perché ero troppo berlusconiano. Scusi un attimo, ma la Biancofiore dice che Berlusconi è patrimonio dell'UNESCO, ha letto? Non l'ho visto ancora, però magari si può aprire la pratica. Ma no, dai, su, si può aprire la pratica. Eccesso. Dai, su, Rotondi, come si fa a aprire la pratica per patrimonio dell'UNESCO, Berlusconi, su? Beh, certamente, diciamo, ha un DNA esistente. Penso che possa essere interessante più per gli studiosi clinici che non per gli archeologi o i cultori delle belle arti. Appunto, ma cioè lei se deve pensare ad un qualcosa dedicato a Berlusconi, no? Nel futuro. Torniamo seri. No, che seri. Il tema della politica italiana è che la metà campo che si oppone alla sinistra dopo 20 anni, orfana della DC, non l'ha ancora sostituita con qualcosa di politicamente affidabile che vada oltre le persone. La Biancofiore dice che ci vuole una Renza nel PDL, cioè un Renzi tipo donna, siamo alla follia. Già è una disgrazia un Renzi, si figuri due. No, si figuri uno donna, no? Ma donna magari sarà più gradevole, più snello, però insomma voglio dire, maschio o femmina, le renzate le lascerei al godimento del Partito Democratico. Perché lei è uno di quelli che ce l'ha un po' con Renzi. No, assolutamente, mi è simpatico. L'unica cosa che non capisco è come uno sveglio ragazzotto democristiano che da noi sarebbe stato ottimo assessore, il più grande democristiano di tutti i tempi, che è il nostro Verdini, nel senso che Verdini, che non è DC, ha imparato a fare il democristiano, e uno come Renzi, essendo un ragazzo sveglio, lo metteva a fare l'assessore, il deputato. Lì dentro è diventato il premier ombra, cioè il premier che dà ombra al premier che c'è, perché Letta si alza la mattina, si guarda allo specchio e trova l'ombra di Renzi. Scusi un attimo, ma visto che Berlusconi ha incontrato tra l'altro, tra gli altri, il formattatore Cattaneo, la Santanchè, insomma, questo Cattaneo sale, È con piacere, però diciamo che anche lui è un sindaco, è più giovane, forse anche più bravo di Renzi, che salga anche lui mi pare quasi una cosa buona. Sì, questo tra l'altro Galan dice invece quelli che stanno al governo, i traditori, entreranno nel nuovo partito di Letta, il partito Neo DC, ci crede? Vabbè, ma Galan è in spericolata concorrenza con Rotondi nelle analisi più azzardate, quindi insomma non me lo potete citare come una fonte attendibile. No, perché... no, però ma sono, cioè, lui parla proprio di traditori all'interno del governo, no, traditori. Siamo io e Galan, siamo la deriva grillina del PDL, nel senso che ci stiamo un po' divertendo in questa legislatura, penso che siano espressioni in libertà. Cioè, come vi state divertendo, scusi? Ci stiamo divertendo, nel senso che spesso diamo dei giudizi e delle dichiarazioni che vogliono magari dire delle cose politicamente vere, ma col sorriso, e quindi lui teme che naturalmente intorno al governo sì. possa nascere un'ipotesi politica competitiva col PDL e lo dice con una voluta esagerazione. Vabbè, senta Rotondi, però le voglio chiedere una cosa, ma questa lobby che è in Vaticano, secondo lei esiste questa qua che ha evocato il Papa? Guardi, io da democristiano laico mi tengo sempre lontanissimo dall'analisi delle cose vaticane. No, quindi, ma può esistere una lobby sono gay? Sono contrario sia ai preti che vogliono spiegare la politica a noi che stiamo in Parlamento, ma sono più contrari ancora ai politici che vogliono spiegare ai preti come si gestisce la Chiesa. Ognuno faccia il suo mestiere. Vabbè, ma è credibile che esista una lobby gay in Vaticano? Una ma lobby non me ne frega gay. Nulla, si figuri se mi metto a commentare cose dette da gente che è andata, mi pare che questi vanno a trovare il Papa come i deputati del PDL vanno a trovare Berlusconi, cioè? non tanto per sentire che dice, ma per raccontare fuori quello che ha detto. Cioè lei si dice se la piglia con quelli che sono andati in udienza dal Papa? No, voglio dire che uno va in udienza dal Papa e come prima cosa esce fuori e spiattella quello che si suppone abbia detto e magari raggiunge del suo, non mi pare una cosa proprio spiritualmente eccelsa. Beh no? Sì, effettivamente è abbastanza strano che uno che si sia riferito fuori quello che ha detto, che avrebbe detto il Papa. Grazie. Ma il Papa grazie. Non ha smentito. Sì, no, il Papa non ha smentito, è difficile smentire poi. Lasciamo in pace almeno il Papa. Grazie. Arrivederci. Well now little mosquito there must be well, some reason for you that I just can't see. Brother, Fabio da Roma, buonasera Fabio. Salve, buonasera Cruciani. Dica. Ascolti, è da poco che l'ascolto, però per diciamo esprimere tutto ciò che penso della trasmissione di lei, abbiamo deciso di dedicarle un verso che recita così. Non ho capito, scusi. No, Cruciani, Fabio, lei pensa di essere spiritoso, io sono abituato a tutto, non si preoccupi, se lei mi rutta in diretta a me non me ne può fregare meno, cioè ha capito, cioè non mi faccio impressionare da queste stupidaggini. Lei è la persona veramente meno democratica che conosco, non è in grado di ma qui non c'è democrazia in questa, ma non c'è democrazia in questa, è per questo che lei si può semplicemente definire come, non so, un allocco così. Sì, un allocco, cosa c'entra essere allocchi con la democrazia, scusi Fabio? Non c'entra nulla, lei mette una parola dietro l'altra, lei mette una parola dietro l'altra senza sapere. Ascoltare gli altri come sta facendo ora, lo vede? Non capisce il significato di quello che dice, cioè ha capito, lei mette una quello che dice lei. No, ma lei mette una parola dietro l'altra, ma non sa il significato, non dice allocco, ma non c'entra nulla con quello che ha detto, nulla. Quello che ho detto, cioè niente. Perché non si concentra su questo? Ma che vuol dire? Ma le ho dato la risposta, in questa trasmissione non esiste la democrazia. Ascoltare gli altri, il suo ruolo lì è inadeguato. Sì, ma chi lo decide, lei? No, lo decide l'opinione pubblica. Lei ma quale opinione pubblica? Ma quale? Ma di che parla? Poco rilievo, assolutamente, questo non è in dubbio, ma sì. È comunque un personaggio pubblico. Quindi ripensi bene al lavoro da fare. Sì, sì. Stiamo togliendo braccia all'agricoltura. Mi ci fa riflettere lei al mio ruolo, Fabio. Farò una grande riflessione questa sera, non si preoccupi, grazie alle sue parole. E lei che fa di mestiere? Arrivederci. Che fa di mestiere? Risponda. Sono uno studente. Sì, uno studente. Allora, pensi all'agricoltura anche lei. Magari è meglio l'agricoltura piuttosto che lo studio, eh? Penso. È pronto, appunto, lei è pronto anche per l'agricoltura, non si preoccupi. Sono pronto a gestire persone come lei. No, a gestire, è pronto all'agricoltura direttamente, alle mani, cioè pronto al lavoro, a zappare, capito? Lei è pronta a prendere la zappa e a zappare. Glielo sto dicendo io. Ma lei non ha detto nulla fino adesso, lei non ha detto niente, semplicemente il fatto che non faccio parlare... Che pensano tantissime persone che lei non accetta. Ma lei non è capace di dire nulla perché ha detto sono un allocco e vabbè, questo ci può stare, eccetera. Ha detto non lascio parlare gli ascoltatori mentre la sto facendo parlare da 3 minuti. Dunque lei si contraddice. Parenzo, lei invece è un grande. Aiuto, adesso mi preoccupo. Lei allora adesso mi preoccupo, guardi. Dopo il suo endorsement mi preoccupo. E lo studente di Agraria ha fatto l'endorsement a Parenzo. Altro da fare. È lei che ha chiamato Fenomeno. Sì, ha fatto un rutto questo evento. Ha fatto un rutto, e quello che pensa è fare un rutto. Quello che pensa è fare un rutto. Penso di lei. Quando penso a lei, questo è quello che ne viene fuori. Sì, sì. Bravo. Bravo Fenomeno, pubblicità. Ciao Fenomeno, pubblicità, vai a zappare, Fenomeno. Sono alla Zanzara, non rompere. La Zanzara. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in Massimo da Roma, buonasera Massimo. Buonasera Giuseppe, buonasera. Vada. Sono sempre Massimo, l'ex commerciante di droga per Roma e dintorni e provincia. E vabbè, vabbè. Buon questo sindaco, un applauso ad Ignazio Marino. E faccia un applauso. E il trionfo di Ignazio Marino, 3 voti e mezzo. Amarato allo zio. Ma come si fa? Cosa, come si fa? Giuseppe. Sì, sì, dimmi Massimo. No, dico il trionfo, cioè, legalmente è così, è sindaco e basta, ma moralmente è il trionfo di Ignazio Marino, il trionfo, ma si può dire una cosa del genere? Ma che, di cosa sta parlando? Del sindaco di Roma. Dunque? Beh, dunque, dico, non so, se è un trionfo, può essere un trionfo. Massimo, ma lei ha fumato qualcosa? Sì, ma scusa, commerciamo droga, vogliamo dire. Ecco, appunto, insomma, qualche sempre. Canna forse sarà... sempre. Quante canne si fa lei? No, ma come? E allora? Allora, torni sulla terra, torni sulla terra, cosa vuole dire? Ma niente, volevo dire che è assurdità, sono cose assurde. E poi volevo insultare... Ma cosa sono cose assurde? Non ho capito, cosa? Volevo insultare il signor David Parenzo. Vuole insultare Parenzo, vabbè, è uno sport nazionale ormai. Perché Roma, sai come lo chiamano il signor David? Come lo chiamano? Dice che lui parla di gay, parla di omosessuali, quando lui non è capace neanche a fare sesso orale, si dice. Che dice con i denti pronunciati davanti batte sul piatto. Ma no, di che sta parlando lei? Ma di chi sta? Sì, Massimo, però se lo chiamano, lo Massimo, chiamano, ma se lei ha bevuto stasera, se lei ha bevuto, se lei vuole passare la serata a parlare di cose allucinanti che non fanno ridere nessuno, è la serata sbagliata. Guarda, te lo dico col cuore, io sono contro le droghe e lancio un messaggio a tutti i giovani: non drogatevi perché la droga fa male. Ha capito Massimo? Sì. Chi è l'arci? Che cosa arci? Lui è arcistronzo, zio. Mi risponda, Parenzo. Ma prego, su che cosa? Ma non c'è niente. No, a me davvero la cosa che più mi dispiace, la cosa che più mi dispiace davvero è per i suoi parenti all'ascolto. Cioè, non ho mai visto una persona umiliarsi così. Ma quando io sono al confronto, vieni, scendi nella piazza di Roma, incontriamoci. Ma su che cosa? Ma su che cosa? Ma non ho tempo da perdere. Ma qual è il... Tu non sei capace. Tu sei la peggiore espressione dell'essere. Tu non è che sei la peggiore? Tu sei frocio nel modo più volgare. Scusi Massimo, ma lei dico... sei contro la razza umana, tu sei contro ogni cosa che abbia una coerenza nella civiltà. Sai cosa mi dispiace davvero? Che quando lei che stasera... Che non storpia i nomi, lui non li storpia i nomi. No, stia tranquillo, stasera è sotto effetto. Chiamassa la zanzara un altro che si chiama David. Lei è sotto effetto, lei è sotto effetto, dai. David, la prova da sport. Prego, prego. Ascolto adesso. Prego. Sì, ma ascolta che cosa? Non è che uno può rispondere su ma nulla. Ma non c'è nulla, non si può ascoltare niente. A me dispiace perché quando adesso lei tornerà a casa e suonerà il campanello del posto dove vive, del suo condominio, le persone che l'avranno ascoltata la guarderanno con stupore e con tenerezza e le faranno una carezza per quello che lei ha detto. La guarderanno e questo mi dispiace. Io vedo già gli sguardi dei suoi vicini di casa, di quelli che la guarderanno con un occhio come per dire ma abita veramente una persona così vicino a casa mia e ti verranno vicino e ti faranno una carezza e ti abbracceranno. Perché questo la gente deve fare quando ti vede. Traffico. La zanzara. Michele da Genova, buonasera Michele. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, volevo dare una risposta, o quantomeno non sono d'accordo su quello che lei dice sulla cittadina onorevole, senatrice Gambaro. Rotondi, lei ha chiesto a Rotondi cosa sarebbe lui senza Berlusconi, lui sarebbe il nulla. Come il nulla, secondo me, sarebbe la Santanchè. Quando si è presentata da sola con Storace, quanto ha preso? Il 2%, l'1%, Donati, se lo ricordo, Donati dell'IDV. Donati dell'IDV. Fin quando Di Pietro andava bene, prendeva voti, vinceva le elezioni, tutti d'accordo. Poi quando Di Pietro ha cominciato a cambiare la strategia, ha cominciato a criticarlo, ha cominciato a opporsi a Di Pietro, ha creato il suo movimento e adesso dov'è Donati? Non esiste più. Berlusconi durante la campagna elettorale alza i toni, dice delle cose non condivisibili, però poi dopo la campagna elettorale cambia completamente la strategia, si è devoti a Berlusconi perché Berlusconi li fa vincere. Sì, però scusi Michele, c'è una differenza, alcune persone politicamente esistevano anche prima di Berlusconi. Santa Anche esisteva anche la Santa Anche esisteva prima. Santa Anche, la Carfagna, so, la Carfagna comunque, esisteva prima. Sta no, citando perdoni, sta citando sta citando persone che hanno un loro consenso adesso, perché comunque ma la storia politica è diversa, no? Anche queste persone qui hanno un loro consenso a livello locale, poi lei lo può contestare. Però, alcuni sì, altri no, la maggior parte. Perfetto. Ripeto, senza le parole usate da Grillo in campagna elettorale, senza i toni usati da Grillo, senza i comizi, senza i affanculo, eccetera eccetera. Berlusconi, mi perdoni, Berlusconi non è la stessa cosa, dai, su. Scusi, Limu non è la stessa cosa, il PD ha un suo consenso, ne potevano entrare meno in Parlamento. No, mi perdoni, finisco. Non sto dicendo che sto dicendo che sono uguali. Io sto dicendo che la strategia, io Grillo al limite, cioè il problema del movimento, il problema di Grillo è che non esisterebbe Grillo stesso se non avesse quei toni lì. Quindi appunto, quando dicono che il movimento rischia, diciamo, di incartarsi, io la metto così, è perché c'è una fase 2. Cioè, ma qual è la fase 2? La fase 2 è che sono entrato in Parlamento. Io non sto, mi perdoni, non sto dicendo accordi, non accordi, devono governare, sono fatti loro. Non è, io non condivido nessuno che dice agli altri quello che devono fare, non è giusto, decideranno loro, però è cambiato, però loro adesso devono fare le proposte. Il problema è che deve cambiare anche la strategia. La Gambaro, secondo me, come altri, è questo il ragionamento sul movimento. Sì, ma di fondo c'è questo, ho capito, ma perché, ho capito, ma il movimento 5 Stelle, senza quelle parole di Grillo, senza la foga di Grillo, ma senza i vaffanculo di Grillo, non può esistere, è il nulla, non, ma sarebbe una minoranza assoluta. Tant'è che hanno perso le elezioni amministrative. Prendere, ma lascia perdere le elezioni amministrative. Cioè, no, ma il piccolo particolare che tu dimentichi, che tu giudichi ancora Grillo per i comizi della campagna elettorale precedente, che ha vinto. Ma può essere solo quello, può essere solo quello. Non è allora lui ora per il dato di fatto è che quel leader politico che a te piace tanto, assieme all'altro, non mi piace per capelli, niente, non mi piace al mago del web, assieme al mago al mago. Vabbè, allora... del web ha perso le elezioni amministrative. Allora in quel due giorni dopo ha detto che ha perso per colpa dei media, ha detto che ha perso non perché ha fatto una strategia sbagliata, ha detto che ha perso per colpa degli altri, come faceva la Lega quando perdeva le elezioni anni fa. Poi qualcuno ha detto che veramente lui ha detto che non ha perso, lui ha detto che non ha perso. Ha detto che no, all'inizio ha detto che aveva perso perché ha detto perché i giornali, i media all'inizio sono contro di me. Poi dopo no, in verità non ho perso, hanno raccontato che abbiamo perso. Non è vero, raccontano menzogne. Ma è un altro mondo, i giornali hanno, ma non si leggono i giornali, si pulisce il culo con i giornali. Benissimo, comunque ha perso. A un certo punto dice no, io in verità non ho perso. Il Parlamento è una tomba maleodorante. Qualcuno ha osato alzare il ditino dicendo: guarda, signor Grillo, caro Grillo, forse le cose non stanno così, forse dobbiamo rivedere la linea politica. Allora, da questo e quello per tutto ha detto: no, via, fuori, ciao, addio, vattene via. Questo è quello che è accaduto, cioè tu stai difendendo questo. No, io sto difendendo il fatto che queste persone devono tutto a una persona. No, ma non ho detto che funziona, a me non me ne frega niente di dire se funziona o non funziona. Quello dipende. Ma le elezioni amministrative, e beh, allora politico va valutato per quello che fa. Ma non è un partito qualunque, ma è una cosa creata da Grillo e Casaleggio, e quegli altri sono entrati in Parlamento solo perché questi due pazzi sono inventati qualcosa. Ma qualcuno potrà dire, forse non hai capito, che Grillo considera queste persone come un numero, non come persone capaci di intendere, di volere, come un numero. Ma maggior ragione noi dovremmo, ma lo sapevano anche prima, ma maggior ragione queste persone che ora, come dire, alzano la testa perché sono persone, non numeri, stanno facendo una battaglia sacrosanta per salvare le idee, che io non condivido. Vabbè, le idee ma di che cosa? A salvare le idee del Movimento 5 Stelle, l'idea di base, non le puttanate di Beppe Grillo, ma le idee, se ci sono, che io non condivido. Vabbè, però capisco che questa Giorgio da Treviso, buonasera. Giorgio da Treviso, buonasera. Dica. Sono Giorgio da Treviso, da Castelfranco Veneto. Sì. Senta Cruciani, anche Parenzo, volevo farvi una domanda, no? È possibile fare giornalista senza fare politica, senza parlare di politica? Senza parlare di politica, che significa? Che vuol dire? No, è una domanda che io vi faccio, dopo vi faccio un'altra domanda dopo di questa, se non mi rispondete a questa. Giorgio, non so che cosa vuol dire quando lei dice è possibile. Ma è possibile che voi due, cioè te, lei, Cruciani e signor Parenzo, sì, è possibile che voi fate politica, cioè in radio, come che lo fate voi? È possibile essere un bravo giornalista senza fare politica in radio? Ma noi non facciamo politica in radio, non facciamo raccontiamo a modo nostro. Sì, ho capito, però sa cosa che dico io? Che dice lei? Cruciani, io dico una sola roba, no? Che gli italiani, invece di piangersi addosso, di dire io qua, io là, bisognerebbe che la prima cosa pagassero le tasse per bene e non evadere. Perché sto bel paese italiano... Va bene, abbiamo capito. Ha attaccato il suo pippone sull'evasione fiscale, ha finito? No, io non ho finito. Però il discorso qual è? Che se è sto bel paese, no? Nessuno si rimbocca le maniche per lavorare, per mettere a posto le robe, come che Dio comanda, qua dove vanno a finire? Maurizio da Roma, grazie. Pronto? Dica. Sì, buonasera, salve. Senta, io volevo semplicemente fare un discorso un po' più serio di quelle cose che ho sentito un po' prima. Sì. Io sono un grillino attivista, sì. Sono convinto, ho votato Grillo, non mi sento né uno stupido né niente di strano. Ho votato Grillo per un motivo semplicissimo, perché dall'altra parte non c'ho più nessuno che mi rappresenta. Voi parlate male di Grillo, lo aggredite, viene di tutti i colori, che non sa fare niente, che diceva fanculo. Ma io dall'altra parte c'ho gente come Fiorito, Lusi, Biancofiore, Formigoni, Bossi, Rosimauro, Belsito, gente che mi ha rovinato la vita. Quindi come faccio io a continuare a votare per PD e PDL? Dovete spiegarmelo. Cioè Grillo dice ha perso le elezioni amministrative. Le elezioni amministrative lo sappiamo tutti. Ma poi chi se ne frega che ha perso le elezioni amministrative? Ma no, ma lo sappiamo tutti che questi qua che si ribellano contro Grillo lo dicessero apertamente. Volevamo fare il governo col PD. Cioè hai sbagliato Beppe, hai sbagliato. Noi invece volevamo fare il governo con il PD per cacciare via Berlusconi, oppure per fare il governo anti-berlusconiano col Partito Democratico. Non hanno manco il coraggio di dirlo, perché quando si è trattato di scegliere se mettere le mani in pasta o meno, cioè se sporcarsi le mani o no, hanno scelto di non sporcarsi le mani. E adesso all'opposizione cosa vuole, cioè Grillo che cosa deve fare? Fa lo stesso. Grillo non può fare niente, Grillo, perché ha deciso, e noi siamo d'accordo, noi del Movimento Vero siamo d'accordo con Grillo, perché se lui appoggiava il PD adesso al governo, avrebbe dovuto votare l'aumento dell'IVA, avrebbe dovuto rivotare l'IMU, si sarebbero ritagliato le gambe da solo. Noi non vogliamo più la politica questa, non la vogliamo più. Infatti Grillo è coerente, sono questi altri che non sono coerenti. Esatto. Cioè sono questi che adesso alzano il dito. Ma non potete dire che Grillo è un pazzo, che l'abbiamo votato siamo dei delinquenti. Non è così. Ma chi l'ha detto? Chi lo dice? Ma lo dicono tutti, che chi ha votato Grillo è un pazzo come lui. Ma no, ma non è vero, il punto non è questo. Io ero un imprenditore grosso. Adesso sto diventando ogni giorno più piccolo, ho dovuto licenziare persone, sto tenendo in piedi l'azienda per miracolo e voto Grillo perché è l'unico che mi dà una speranza. Allora, perché gli altri sono una massa di delinquenti, tutti dal questo primo all'ultimo. Questo non lo so se sono delinquenti, di chiacchieroni sicuramente. Senta, ascolti, di chiacchieroni ascolti, sicuramente. Noi non è cosa di ieri, è cosa di oggi. Ma tutta la giunta di Milano, tutta la giunta, Polverini se n'è andata e ce la ritroviamo al Senato. Formigoni hanno dato 9 anni al suo amico e adesso ce lo ritroviamo al Senato. E voi mi dite che noi dobbiamo avere paura di Grillo? Ma state fuori di testa. Ma io non ho paura di lei. Ma... Non lei. Guardi, Maurizio, il punto fondamentale è uno, lei l'ha centrato perfettamente quando ha parlato prima di questi qua. Queste persone qui, al di là del fatto che devono tutto a Grillo, però è esattamente come li dipingeva lei prima. Ce lo ripeta, lo ripeta a Parenzo. Di quale delle cose che ho detto? Perché ne ho dette tante. No, questi qua che adesso vogliono uscire dal movimento. Comunque questi si mettono... che vogliono uscire dal movimento, questi che vogliono uscire dal movimento, perché si vogliono aggregare alla politica vecchia, vogliono prendere i privilegi come gli altri. Guardi, perché chi entra nel movimento guardi, non sa che prima la signora, cosa deve guardi fare. Che la senatrice Gambaro sì. Non se ne vuole andare da nessuna parte, vuole ma restare lì Gambaro, non può nel dire movimento che Grillo, 5 la informo di questo, la senatrice Gambaro Grillo, non vuole andare da nessuna ad aiutare, è Grillo guardi, che la vuole cacciare, ha capito? Ascolti Parenzo, io una ma io capisco che la fede, io di fronte alla fede, ma non è una fede, ma io ho votato Berlusconi per 15 anni e se potessi tagliarmi le mani le taglio. Ascolti, ma io capisco, abbiamo guardi, la borsa, abbiamo fatti, la borsa, abbiamo la borsa. Se lei si fa di crack prima di dire le cose, non è mica colpa mia. Borsa. Che carogna che siete, vabbè. La Zanzara. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai,

zanza, la zanza, la zanzara danza. Io sono pietanza per la zanzara nella stanza. Lei russa e non si sveglia mai, lei russa e sogna i fatti suoi. Riccardo da Bologna, buonasera. Dica. Perché vorrei parlare a nome di quelli che zappano. Sì. Ma tu ti senti così superiore a quelli che zappano? Assolutamente no, guardi che zappare la terra è un termine evocato dall'ascoltatore di prima. Io ho grandissimo sì. rispetto, no, non ho detto perché, nulla, poi rispondevo perché, a lui, no. poi rispondevo a lui. No. Siccome lui sta studiando scienze agrarie, sì. vai a zappare. No, allora... Come in modo così proprio... Riccardo, me l'ha detto lui... Hai fatto il liceo classico tu. Me l'ha detto... Riccardo, me l'ha detto prima lui, io ho risposto a lui. No, ma è inutile che ascolta, rida. Non denigrare. Quelli... Ma io non sto denigrando affatto, ho grande rispetto per quelli che lavorano la terra. Riccardo, ho detto che la parola zappare la terra l'ha pronunciata... L'ha pronunciata l'ascoltatore di prima, c'è esattamente. C'è molta gente che zappa la terra ancora, Ma è lo so. Che fa le cipolle, fa l'insalata. Ma io ho grande rispetto. E mangiano tutti gli altri. Anche. Ho capito, Riccardo, le ripeto che io ho grande rispetto di chi zappa la terra. Se lei si è sentito offeso dalla frase che ho detto prima, sì, io me ne dispiaccio. Io sono un agronomo. No, Riccardo, ho detto se ho pronunciato una frase spiacevole prima è semplicemente per rispondere a quell'imbecille che ha chiamato e che diceva lei deve andare a zappare la terra come se fosse per me una un'offesa. Comunque, se ho ripetuto l'offesa, mi dispiace perché ho grande rispetto per chi coltiva la terra. Io ascolto tutte le sere da mo. Volevo saperne cosa. Ho fatto il liceo classico. Sì, certo ho fatto il liceo classico. Ah, ecco. Perché sai, mia moglie ha fatto il liceo classico e trovo delle similitudini. In che cosa? Tra me e lei? Sul fatto che siete abbastanza boriosi. Ma no, ma non siamo boriosi. Non siete boriosi perché avete studiato greco, latino. Ma tutto guarda, lei si sbaglia. Non siamo boriosi. Va bene. Ma non siamo boriosi per nulla. Il punto non è quello. Ma non sono stato io a evocare questa cosa della terra. No, non evoco niente. Mi scuso. No, ma sono io che mi scusi. Non ho delle istruzioni per provarsi l'uccello per andare a pisciare. Ok. Non ho capito. Scusi, la metafora non l'ho capita. Non l'hai capito. Pensaci. No, Riccardo, lei non ha bisogno di cosa. Non ho capito. No, io non ho bisogno di istruzioni per trovarmi l'uccello per andare a fare. Ma quello nemmeno io però, perché? Ah, sì, bene, è vero, c'è un classico. Perché, scusi, chi... saluto. Ma che vuol dire? Che metafora è? Non la capisco. È una metafora strana di noi che zappiamo. Ho capito, ripeto, Riccardo, ho grande rispetto di chi zappa la terra, non volevo offendere nessuno, rispondevo a quell'imbecille che mi ha consigliato di andare a zappare la terra invece di fare la radio, ha capito? Siamo a posto, ho capito, perfetto, grazie. Romano, provincia di Pescara. Salve, buonasera, io chiamavo per la questione del femminicidio di cui avete parlato prima. Allora, volevo dire, cioè, secondo me non bisogna avere paura di questo termine, perché è semplicemente, è chiaro che si tratta di un omicidio come tutti gli altri e non è né più né meno grave, e questo chi lo pensa, chi lo dice, sicuramente è un pazzo, però semplicemente è un termine col quale si identifica un tipo di omicidio che viene commesso in un certo contesto socioculturale, cioè dove alla donna vengono negati dei diritti, viene negata la sua dignità. Ci sono tante associazioni in Italia, che a partire da Telefono Rosa, ma anche tante altre, che assistono, che seguono le donne che vivono questo tipo di situazione drammatica, per cui forse dire semplicemente una stronzata non esiste, così chiuderla così è anche una, può essere intesa come mancanza di rispetto magari da chi lo vive invece questo problema. Romano, lei mi ha fatto una filippica di un minuto e non mi ha spiegato assolutamente assolutamente niente. Io resto convinto che se uno ammazza deve essere condannato allo stesso modo, sia che ammazzi un uomo sia che ammazzi una donna, esattamente allo stesso modo. Dunque non capisco, poi per carità si possono fare i convegni sugli uomini che violentano le donne, sulla situazione all'interno delle famiglie, su quello che vuole lei, va benissimo tutto, qualsiasi iniziativa eccetera, ma non riesco a capire quale sia la differenza se un uomo ammazza una donna o se un uomo ammazza un altro uomo. Francamente non lo capisco dal punto di vista proprio delle pene, o no? Lei ha ragione, ma infatti non è un problema di pene, è un problema di identificare una cosa con una parola per poter poi affrontare i problemi culturali che ci stanno dietro. Vabbè, i problemi culturali li lasciamo a qualcun altro. Grazie, grazie. Andrea da Lecco, buonasera. Problemi culturali, sì. Problemi culturali, fra un po' qui saremo qui a spararci, qui verrà fuori un casino. Ma speriamo di no, Andrea. Speriamo di no, però qua la rabbia è tanta. Ma chi lo dice questo qua? Eh? Chi lo dice che è tanta? Ma signor Cruciani, lei fa un lavoro che dice devo fare ascolti, viene pagato bene, sta lì bello seduto nella sua cadrega. Sì, no? La cadrega. Ma qua, sì. qua in giro c'è una rabbia della Madonna, perché la gente deve preoccuparsi delle tasse, deve preoccuparsi di questo, di quello, quando non sa se a fine mese riuscirà a mantenere tutto per quello per cui ha lottato, per quello che ha faticato, ha investito. Poi? Niente, volevo... Non sa manco che dire lei, non sa nemmeno che dire. No, non so benissimo, solo che sono abbastanza agitato. Ecco, no? Allora mandiamo al traffico. Volevo dire che lei dovrebbe, invece che fare certi discorsi, diciamo, può fare quello che vuole, perché tanto lei interessa degli ascolti e va bene, no? Però la gente è talmente incazzata e quando intervista un politico invece di essere tanto sdolcinato, tanto cosa, dovrebbe sputargli in faccia a questi politici. Sì. Dovrebbe dirgli: ma signori, la gente qui non ce la fa più. Qui non ce la fa più andare avanti. Sta perdendo tutto. Beh, nuovo suggerimento di Andrea: sputare in faccia ai politici, come una volta disse il professor Becchi di Monti. Traffico. La zanzara. Quando la zanzarina sì, Gianluca da Roma. Gianluca. Presente, eccomi. Dica. Noi ci eravamo sentiti forse una decina di giorni fa per chiarire, diciamo, un quesito che mi era avevo trovato in rete. Cioè? Che praticamente interessava la comunità perché riguarda la Banca d'Italia. Quale comunità? Ah sì, Gianluca, quella cosa sulla Banca d'Italia. Ma sì, sono andato a vedere, ma è una roba vecchia quella roba lì. Non è vecchia, perché io sono rimasto male quando ho saputo che alle Cayman ci sono due conti intestati alla Banca d'Italia. Questo insomma è una notizia un po' sconvolgente, perché non è di un ente, diciamo, di una persona che ce li ha, è la Banca d'Italia, quindi sapere che cosa c'è dentro. Vabbè, adesso poi faccia le sue ricerche anche lei, cioè io adesso non ho tempo da perdere con la Banca d'Italia, le Cayman, eccetera. Per carità, è un problema che potrebbe essere anche importante, però credo che qualcuno ne abbia già parlato a lungo di questa storia dei conti della Banca d'Italia, le Cayman. Ma scusi, secondo lei che cosa c'è dietro? Non lo so, appunto, sarebbe bello, sarebbe interessante saperlo. Vabbè Gianluca, vedremo. Sai chi c'è con noi? Da lì parte tutto. Ma non lo so se parte tutto là. Da lei che cosa parte? Magari c'è un tesoro, magari. E allora? Se ci fosse un tesoro? Di chi è questo tesoro? No, ma sarebbe questo tesoro? Sì, credo, se lei sa qualcosa, Gianluca, però lo dica. Se lei pensa di sapere qualcosa. Quando ho letto i numeri di questi due conti che si trovano nei Cayman, intestati alla Banca d'Italia, mi ha lasciato. Ma è una cosa nota questa qua. Se uno va a vedere, sono andato a fare delle ricerche anch'io. È già uscito fuori che ci sono due conti della Banca d'Italia alle Cayman. Mi sembra tutto abbastanza regolare. Io non lo vedo regolare, perché la Banca d'Italia non dovrebbe avere dei conti alle Cayman, secondo me, da cittadino. Perché se questo tesoro giustamente è della banca. Io potrei anche malignare, i debiti sono degli italiani e i soldi sono della banca, non lo so, il discorso è complesso, è il cane che si morde la coda, però anche il Papa ha detto... Gianluca, arrivederci. Maurizio Ruggero, buonasera, come sta? Oh, buonasera, io sto bene, lei come sta? Presidente... Un vento di Sodoma alla porta. Come un vento di Sodoma? No, di solito lei sempre per Sodoma mi chiama, per cui mi dica. Ma non è che Sodoma, qui c'è la lobby gay al Vaticano. Mancava il reazionario. Se ne è accorto adesso, capito? Chi? Il Papa dice se ne è accorto adesso? No, ma diciamo che allora che esiste una congiura mondiale omosessualista e sodomitica non c'è il minimo dubbio. Non ho capito che cosa esiste, scusi, Ruggero, presidente di Sacrum Romanum Imperium. No, non è Romanum, basta, solo Sacrum Imperium. Sacrum Imperium, benissimo. Il Romanum è abolito. Benissimo, allora, Maurizio Ruggero, presidente di Sacrum Imperium, giusto? Sì. Sostiene che esiste un complotto mondialista omosessuale, è così? Sì, non c'è dubbio, ma questo vuol dire... solo gli sciocchi non lo vedono, è talmente evidente. Cioè, vabbè, però fatto sta che all'interno della sua amata chiesa, del suo amato Vaticano, esistono lobby gay, caro Ruggero. Sì, ma lei come sa meglio di me, la mia amata chiesa, diciamo così, si ferma al Concilio Vaticano II. Ah, c'è lei... Santa Madre Chiesa. Ah, ho capito. Perché adesso ci sono i sodomiti, e proprio perché, grazie al Vaticano II e l'apertura al mondo, sono entrati questi bei... Scusi, Ruggero, però questi no... piacciono tanto a voi. Cioè, a me non piacciono i sodomiti che sono in Vaticano. Ma no, a lei piacciono i frati progressisti, perché basta vedere in generale di quale buona fama godano, tra virgolette, presso tutti gli anticlericali, tutti gli anticlericali, tutti i malvissuti, tutti i nemici di Dio, chissà perché in questo momento travedono per Bergoglio, per esempio, travedono per la nuova linea pauperista e miserabilista. E perché, secondo lei, perché? Perché evidentemente simili scum similibus, persino Palenzo può tradurlo, cioè i simili vanno con i simili. Cioè è evidente che il mondo progressista esterno alla Chiesa capisce benissimo chi sono i propri alleati all'interno, e questo è il nostro caso, evidentemente. Capito? Io ho capito che Maurizio Ruggero è rimasto fermo, ma a quella a secoli. Tre volte dire Maurizio Ruggero è rimasto fermo, eccetera. Il povero Ruggero è rimasto fermo a secoli addietro. Se non è capace, sia a casa. Scusi, se in tutti questi anni non è riuscito a trovarsi una... Non capisce niente di questioni ecclesiali. Io spero che tu ti trovi una donna, guarda. Io spero che tu ti trovi una donna. Io spero che lei abbandoni la sinagoga, che la cieca al punto tale che non capisce niente di queste cose. Ruggero, ma... io mi auguro che tu che sei di sacro imperio, se tu sei un uomo che piace alle donne, no? A che religione appartiene? Me lo dice. Ma non c'entra niente la religione. Scusi, Ruggero. Mi devi riprendere. La competenza niente meno che dell'uomo della sinagoga. Devi riprenderti, abbraccia una donna. Fermi tutti. Ruggero, voglio capire una cosa. Sì. Ruggero, scusi un attimo. La lobby gay al Vaticano esiste o no, secondo lei? Allora, su questo punto Bergoglio ha perfettamente ragione, nel senso che ci fu uno studio anni fa. Sì, vabbè, adesso andiamo più veloci, Ruggero, su. Ma è Cruciani, lei si chiama Cruciani, mi dia il tempo di dire una cosa in favore della croce. Allora, dicevo, ci fu uno studio di Padre Villa anni fa che provò che Paolo VI nominava spessissimo vescovi di formazione, diciamo così, o di orientamento omosessuale. È normale che questi che facciano pronunciamenti tipo progressista abbiano a monte una vita di questo tipo, cioè a monte di dichiarazioni progressiste c'è sempre una vita di peccati, chiaro? Ah, ho capito. Oh, persino Parenzo l'ha capita, forse. Ho capito. Allora anche il Papa è così. Dunque, purtroppo Bergoglio sicuramente su questa vicenda, diciamo, della denuncia della congiura omosessualista ha ragione, sicuramente. Ma non ha parlato di congiura omosessualista, se la inventa lei. Non ho capito, scusi. Ma se la inventa lei la congiura omosessualista, non ha mai parlato. No, purtroppo è talmente evidente che solo i ciechi come voi non se ne accorgono. Vabbè, ci dobbiamo lasciare, a domani. Bisex, come state? La volevo investire, lei e il suo sottopancia Parenzo, di un importante compito, la promozione della pillola etero. Se viene scoperta, consente agli omosessuali di diventare etero e guarisce i gay dalla procedutine. Per favore, datemi una mano, chiamate i ricercatori. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Viva i frasi, viva i frasi! Radio 24. La passione si sente.